Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. Traduzione di Anna Nadotti e Giovanna Iorio Bates. Te l'avevo detto che sarebbe stato spaventoso, disse Frederica. Tu non sei stata d'aiuto, disse Stefani. Ho cercato, si giustificò Frederica. Non esattamente, disse Alexander. Stefani si stringeva le braccia intorno al corpo e tremava. Alexander le si avvicinò. Tutto bene? Credo di sì. Ho la nausea. Non dovresti cercare a tutti i costi di essere ragionevole. Siamo state educate ad esserlo. Non esattamente, disse Alexander. Oh sì, invece. Credere nella ragione e nell'umanità e nei rapporti personali e nella tolleranza. Qualunque precetto può essere rafforzato con qualunque tecnica. Dopo quello che è successo oggi non proverò più gli stessi sentimenti per lui. Parlava con voce bassa e flebile. In un attimo di malizia, Alexander si domandò se si riferisse a Bill o a Daniel. Frederica dichiarò con fermezza: verrà più miti consigli, vedrai. In tal caso avrò patito tutto questo per niente. Dovrei far finta di nulla. Ecco quello che ci fa nostro padre. Ogni volta. E noi sbagliamo a dargli retta, perché dopo un po' si giustifica dicendo che non intendeva dire ciò che ha detto. Al che uno si sente in colpa per aver rimuginato per giorni sulle orribili parole che lui poi ritira. Inutile dar retta a cose assurde. Già. Devi parlarne con Daniel, Stefani, subito, appena puoi. Daniel? Non posso raccontarglielo, sarebbe terribile, non posso. Riguarda anche lui, disse Alexander con gentilezza. Stefani cominciò a singhiozzare in preda al panico. Non riesco a ricordarmelo. Non riesco a ricordarmi chiaramente di lui. Non è che non ci abbia riflettuto dentro di me su tutte queste cose, la chiesa. Ma Daniel c'è, disse Alexander, ed è reale. La circondò con le braccia e lei sentì la fragranza dell'Old Spice. Stefani non poteva dire che l'irrealtà di Alexander in quel senso e la sua presenza in quel momento esacerbavano le sue insicurezze. Gli si aggrappò e pianse, e lui le accarezzò i capelli a lungo. Frederica stava controllata sul divano. Non le badavano, e lei si sentiva elettrizzata e rinvigorita. La loro esistenza era da sempre punteggiata da simili burrasche. Non era certo la prima lampada che andava in frantumi. Vivevano in accordo con un mito di normalità, un'immagine di sicurezza e solidità del ristretto cerchio familiare. Ma c'erano fessure e interstizi attraverso i quali infuriavano raffiche gelide. Era sempre accaduto e sarebbe accaduto sempre. Il che aveva un risvolto interessante. Urli, grida minacciose, irrazionalità non erano, come voleva l'estetica e l'etica dei Potter, temporanee aberrazioni. Erano la sostanza della vita. Ammettendolo, ci si poteva comportare in modo autentico. Si alzò in piedi, diede una pacca sulla spalla di Stefani, che sussultò, e uscì dalla stanza. Il problema, disse Stefani, è che mi sento incapace di vivere. Sciocchezze. No, dico sul serio. È lui che mi fa sentire così. È assurdo, ma è così. Tu cerchi di placarlo come fosse Geo. Non va. No, no, perché peggiora le cose, anche per lui. Vorrei essere morta. Non essere. Tu vuoi sposare Daniel Orton. Detto questo, le diede un bacio asciutto e gentile sulla bocca. Lei abbandonò la testa sulla sua spalla e restarono così per un po'. Era vero che non riusciva a ricordare Daniel. Il rappresentante di bambole. Frederica offrì i suoi doni a Stefani con un gesto cavalleresco e delle scuse. Stefani la ringraziò e disse che davvero non si sarebbe dovuta disturbare. Frederica pensò che sua sorella era abbastanza intelligente da sapere quanto possano ferire simili commenti. Si sforzò di giustificarne il nervosismo. D'altra parte, Stephanie doveva riconoscere che anche lei era parecchio sotto pressione. Soffriva di una collera cronica provocata da una sorta di lecito film a luci rosse, confuso e pieno di iati, che le scorreva ininterrottamente in testa e altrove. Malgrado la sua stazza, Daniel era diventato spaventosamente interessante. Volente o nolente, con la fantasia Frederica gli sollevava la camicia da vicario e gli abbassava i pantaloni da vicario, valutava il peso di quell'enorme ventre e aveva fugaci visioni del dibattersi gioioso del biancore morbido di Stephanie con la mole irsuta e nera di lui. Allora si spogliava, ma anziché penetrare in lei, l'aria la rinchiudeva in un calore claustrofobico. Ringhiava a tutti, impettita e tronfia, e otteneva risposte solo dallo specchio. Winifred le suggerì di andare a fare una lunga passeggiata per distrarsi. Frederica accolse la palla al balzo, prese la corriera per Calverley, dove intendeva prenderne un'altra fino alle brughiere del North Yorkshire e lì fare una lunga camminata. Dietro la cattedrale di Calverley, in cui entrò e si trattenne per una quindicina di minuti, c'era la stazione degli autobus. Frederica salì su una corriera marrone diretta a Gotland e si sistemò accanto al finestrino, auspicando quel senso di disincarnazione che un buon viaggio può offrire. Un uomo venne a sedersi accanto a lei. Con gesto rituale, Frederica si alzò e poi si rimise seduta, con ciò indicando che gli faceva posto, e strinse a sé le pieghe della gonna. Il suo vicino si accomodò immediatamente, occupando quello spazio. L'autobus lasciò Calverley. Frederica lanciò un'occhiata furtiva all'uomo. Indossava un abito di un marrone rossiccio, lanuginoso, nel quale appariva molto solido. La mano quadrata sul ginocchio accanto a lei portava un anello d'oro con sigillo. Guardò fuori dal finestrino. Lasciata a Calverley, l'autobus cominciò ad arrampicarsi. Frederica, liberata dal malumore e dal caldo, si abbandonò ai suoi pensieri. Pensava a Racine. Stava studiando Fedra per l'esame di maturità. La signorina Plesket, l'insegnante di francese, aveva assegnato loro innumerevoli esercizi di analisi dei personaggi. Avevano analizzato Fedra, Ippolito, Aricia, Enone, ma non ancora Teseo. Gli esami finali funzionavano così. In un certo senso, quel modo di studiare rendeva Racine identico a Shakespeare e Shakespeare identico a Shaw. L'altra cosa che facevano, e che rendeva Shakespeare simile a Racine ma diverso da Shaw, era l'individuazione delle immagini ricorrenti. Sangue neonati in Macbeth, sangue, luce e oscurità in Fedra. Ciò rendeva Shakespeare e Racine molto simili ad Alexander Wedderburn. Ma quello che colpiva, studiando in parallelo Shakespeare e Racine, era la differenza nella struttura complessiva dell'opera. C'era senz'altro un modo per descrivere tale differenza. Comparare e contrapporre Fedra e Cleopatra quali ritratti di donne passionali? No, no. E non aveva a che fare neppure con le unità, che le sembravano una falsa pista. Aveva a che fare con il verso alessandrino e, se si pensa in francese, con un vocabolario limitato. «Ce n'est plus une ardeur dans mes vins cachés, c'est Venus tout entière à sa proie attachée.» Frederica guardò fuori dal finestrino. L'uomo accanto a lei sconfinava. Succedeva sempre che i suoi vicini occupassero una porzione eccessiva del sedile. Il grosso sedere di quest'uomo premeva caldo contro il suo. L'avambraccio attentava al suo spazio. A una curva l'autobus traballò e il tizio si aggrappò al ginocchio di Frederica. Si raddrizzò e disse: «Mi scusi, sembra di essere in barca. Non fa niente. Va lontano?» «A Gotland.» «Vive lì?» «No, no.» «In vacanza?» «Una giornata libera.» «Anch'io.» «Una giornata libera. Ho pensato di andarmene nella brughiera. Lei è sola?» «Sì, anch'io.» «Laconico», pensò Frederica. Lui sprofondò di nuovo nel silenzio. Il suo sedere si fece più grande e più vicino. Il risvolto del cappotto le sfiorava il seno. Il respiro era visibilmente affannoso. Frederica appoggiò il viso al finestrino e studiò il paesaggio. Se si viveva in un posto come quello, si poteva supporre che il paesaggio fosse essenziale in sé, avere la sensazione, come le sorelle Bronte, di usarlo come uno strumento di pensiero e percezione, ma allo stesso tempo era un ostacolo. Sorrise, incitando il suo vicino a conversare. «Ha qualche suggerimento su cosa fare in questo posto?» «No, dicono che è un posto carino.» «Così dicono. Farò una passeggiata, mi sgranchisco queste vecchie gambe, eh? È buffo che abbia deciso di fare un giro nel mio giorno libero, visto che per lavoro viaggio tutta la settimana. Si potrebbe pensare che nel giorno di riposo me ne sto fermo, e invece divento irrequieto.» Frederica annuì con cautela. Con un improvviso moto di irritazione, l'uomo disse: «Ci si sente soli viaggiando. È duro avere casa e famiglia se si è costretti a viaggiare. In quella casa ce ne butto un sacco, mi creda, ma non ne ricavo alcun beneficio, salvo il piacere di sapere che loro stanno meglio di come starebbero altrimenti. Nessun beneficio personale. Non si può pretendere di far parte delle cose, non come se uno rientrasse ogni giorno per il tè.» «Eh sì», disse Frederica, che non avrebbe mai saputo chi abitasse quella casa, genitori, moglie, figli. «Mia sorella sta per sposarsi, così siamo nel caos.» «Non ho difficoltà a crederle», disse l'uomo bruno con esplicita simpatia e comprensione. Quando arrivarono a Gotland, l'autobus si fermò davanti a un pub. Faceva freddo. Il compagno di Frederica disse: «Le offro un bicchiere.» Lei stava per rifiutare, ma era curiosa di vedere l'interno di un pub dal momento che non c'era mai entrata. Alla domanda su cosa volesse bere rispose: «Whisky», che di solito prendeva per il raffreddore con il miele e che trovava più appropriato al luogo di uno sherry o di gin e succo di limetta. L'uomo le offrì due whisky e le parlò di bambole. «Non ci crederà, ma i crucchi fabbricano bambole molto più carine delle nostre, con belle faccette, capelli morbidi, incredibilmente naturali, incredibilmente delicati. Le nostre bambole sono di solito cosette dalla faccia rigida, con guance simili a biglie rosse e occhi che fanno tic e tic e tic e tac come sassolini e non la smettono di rumoreggiare quando le capovolgi. Stranamente ai bambini piacciono lo stesso, con le loro boccucce rosso sangue e quell'espressione furbetta che ti rivolta un po' lo stomaco se le guardi davvero, cosa che evito di fare, naturalmente, quando lavoro, perché il mio mestiere è vendere il prodotto. Però va detto che ai ragazzini piace qualunque cosa. Spesso penso che in realtà mica guardano quello che accarezzano. Qualunque straccio o gruccia per abiti o aggeggio di gomma farebbe felice la maggior parte dei ragazzini se decidessero di giocarci. Dico davvero. Ma se ti ritrovi nella posizione di far paragoni, ti fai un'idea della bambola ideale. Quello che mi piacerebbe davvero sarebbe una bambola naturale. Sa, una di quelle morbide con le pieghe vere che hanno i neonati, che beve e fa pipì e tutto il resto, con quelle gambette inutili che hanno i neonati veri. Potrei progettarne una, ma non la prenderebbero neppure in considerazione. Troppo brutta, senza capelli, quella pancia gonfia, non la guarderebbero neppure. Peccato. Peccato anche per i bambolotti. Le ricette sono neri o olandesi, con calzoncini che coprono un bel niente. Mi sono domandato molte volte se i ragazzini non si domandano mai che fine abbia fatto la passerina o il pisello, pesciolino o come si chiama, che vedono su di sé o su sorelle e fratelli. Non siamo fatti per essere così vergognosi. Poi te lo porti dietro per tutta la vita. Ancora whisky? Non c'è nulla di male nella pura e semplice verità, non crede? Ma se ci provassi mi denuncierebbero. Questo è sicuro. Io avevo una bella bambola di gomma, si chiamava Angelica, ma la pancia si è consumata e la maglietta liquefatta. Orribile. L'avrà tenuta troppo al caldo. Il talco aiuta con la gomma. E prende i capelli. I crucchi sono più bravi anche con i capelli. Hanno una migliore gamma di colori, molto realistici. I capelli che facciamo noi sono corvini o biondo platino e qualche volta rame, se così lo si può definire, piuttosto enné. Ma i crucchi fanno dei capelli che sembrano proprio naturali e piazzano meglio le ciocche, non a file irregimentate come ti aspetteresti da loro. No, no, ben distribuiti sul cranio, naturali. Ah, certe teste sono veramente belle. Distrugge la fiducia del Made in Britain, ma è così. No, non è che io voglia tessere le lodi dei crucchi, ma non ci penso neppure, ne ho viste troppe. Anche se va detto che né crucchi né inglesi o nessun altro potrebbe fare dei capelli belli, folti e insoliti come i suoi. Hanno una tinta meravigliosa, veramente unica, se posso farle un complimento. Grazie, rispose Frederica con dignitosa nonchalance. Sotto il tavolo la caviglia di lui aveva agganciato quella di lei, calzino arrotolato su calza di nylon. Frederica sentiva che le regole di un gioco che non conosceva venivano rigorosamente, seppur eccentricamente, osservate. Un tanto di whisky, un tanto di conversazione e poi... Posso chiederle il suo nome? Frida Plesket. Insolito. Io mi chiamo Ed. Edward, per la verità, naturalmente, io lo preferisco, ma tutti mi chiamano Ed. Ed. Andiamo? Attraversarono il centro di Gotland, lungo una strada che diventava un sentiero, scavalcarono con un certo impaccio un ruscelletto e fecero qualche passo in aperta campagna. Fu subito chiaro che Ed non aveva intenzione di procedere oltre. Chiese a Frederica se pensava che fosse troppo freddo per sedersi. Lei disse di no. Lui prese il permeabile e lo stese sotto un cespuglio di rovi. Frederica sedette rigida su un lembo dell'impermeabile, dicendosi che alcune cose che ora la preoccupavano sarebbero state più semplici una volta conosciute. Aveva letto L'amante di Lady Chatterley, sì, e anche L'arcobaleno e Donne innamorate, ma non si può dire che si aspettasse una rivelazione dal rappresentante di bambole. Desiderava mettere a fuoco l'origine della propria scontentezza. Ed si sistemò accanto a lei, appoggiandosi su un gomito piuttosto goffamente, e la guardò. Frederica non incrociò il suo sguardo. Durante tutto quello che accadde, non lo guardò mai veramente in faccia. In linea di massima sapeva che aveva mascelle pesanti ed era rasato di fresco, e che i capelli erano corti, ispidi, castani. «Comoda?» si informò. «Più o meno. È meglio se si rilassa un po' e si stende». Lei si distese. «Brava bambina!» disse. E accostò il suo corpo a quello di lei. Passò una gamba sulle sue e avvicinò il viso al suo, baciandone, mordicchiandone ogni punto, fronte, guance, palpebre chiuse, mento, labbra, con labbra bollenti, sode, asciutte. Aveva una sorta di bambina e s'apprestava a mettere in atto una tecnica sperimentata. I loro denti urtarono rumorosamente. Frederica cercò di sottrarsi voltandosi, il che accrebbe l'attività di Ed, che la strinse a sé con un braccio e si issò con decisione sopra di lei. Forse era un maniaco sessuale, avrebbe dovuto pensarci. Impazzirò, pensava. Devo assolutamente sapere com'è e non lo sopporto. In che modo arrivi a sapere non ha importanza, non deve averne. Cercò di serrare le gambe, di dire di no. Ma una sorta di meccanica bramosia si impadroniva del suo corpo, che si sollevò spontaneamente per cercare di avvicinarsi a lui. Le sembrò di vedere quelle dita all'opera, dita tozze, ignote, chiazzate di nicotina non troppo pulite, e si abbandonò a una furia di emozioni contraddittorie. Alla fine si sentì esausta. Non aveva niente da dire. Rimasero seduti uno accanto all'altra, entrambi con un'espressione piuttosto perplessa. Poi Ed disse: «È meglio tornare in paese. Possiamo prendere il prossimo autobus per la costa. Credo che resterò qui e farò una passeggiata». Restarono seduti ancora un po'. «Bene», disse Ed. «Io andrei. Se lei si toglie dall'impermeabile». Frederica si alzò in tutta fretta e lui raccolse l'impermeabile, lo ripulì meticolosamente, lo ripiegò sul braccio, le fece un muto cenno del capo e si avviò lungo il sentiero. Di fatto Frederica non andò lontano. Fece una breve passeggiata nella brughiera e poi, senza una meta precisa, lungo il sentiero. Il desiderio di un'energica camminata era svanito e anche quello del film a luci rosse. Risalì il sentiero e si imbatté in un'auto metallizzata, pulitissima, parcheggiata in uno slargo. Aveva qualcosa di familiare. Poi la riconobbe. Si avvicinò, posò la faccia sul parabrezza e sbirciò all'interno. Sui sedili anteriori non c'era nessuno. Su quello posteriore era disteso sgraziatamente Alexander, con un ginocchio nel vano tra i sedili, sopra una donna non identificata. Frederica rimase a fissarli sbalordita, incapace di staccare gli occhi dalla scena ipnotizzata, posseduta dalla curiosità. Alexander, allertato da qualcosa, sollevò un viso arrossato e delicatamente lucente e incontrò il suo sguardo. Frederica rimase a fissarli sbalordita, incapace di staccare gli occhi dalla scena, ipnotizzata, posseduta dalla curiosità. Alexander, allertato da qualcosa, sollevò un viso arrossato e delicatamente lucente e incontrò il suo sguardo. Il viso incorniciato di Frederica Potter nel bel mezzo della brughiera di Gotland era assai peggio dell'apparizione della ragazza di Castle Mount alla maniera del gatto del Cheshire. La sua espressione sembrò ad Alexander avida e crudele. Per quello che sembrò un istante lunghissimo, si fissarono negli occhi in silenzio. Poi Alexander decise confusamente che, abbassandosi, ovvero lasciando ricadere la testa sul viso di Jennifer, che sperava di proteggere col suo corpo dagli sguardi indagatori di Federica, lei forse non l'avrebbe riconosciuta e magari, sentendosi ignorata, se ne sarebbe andata. Federica non era un'allucinazione. Il suo fiato offuscava il parabrezza. Si avviluppò con il movimento più dignitoso possibile intorno a Jennifer e attese, ascoltando il proprio respiro. Desiderava, per mille ragioni estetiche e muscolari, che fossero rimasti fuori dall'auto, ma Jennifer si era lamentata del freddo. Quando fu di nuovo sull'autobus, Frederica si sorprese nel veder salire Ed. Fu ancora più sorpresa quando andò a sedersi accanto a lei ed estrasse un pingue taccuino nero. «Prima di partire», le disse con tono professionale, «voleva segnarsi il suo nome e indirizzo, casomai fosse ripassato da quelle parti, cosa abbastanza probabile, visto il suo mestiere». Frederica ripeté il cognome della signorina Plaskett e si inventò un indirizzo composto dal numero civico della casa di Jennifer e dal nome della via di Daniel, e un numero telefonico composto per metà dal numero della scuola e per metà da quello del medico. Quell'intreccio fittizio di dati reali aveva una verosimiglianza che l'invenzione pura non avrebbe avuto. Ne fu pienamente soddisfatta, anche se non capiva perché interessassero a Ed. Frederica rifletteva intensamente. Era stata una giornata frammentaria, ma piena di cose. Stefani, la cattedrale di Calverley, Racine, la brughiera ed Alexander. Presi nell'insieme, come era senz'altro possibile, quei fatti avevano aspetti allarmanti. Se, per esempio, si prendevano le fantasie zozze su Daniel e le si mettevano in relazione con Venus tout entière, poi con Ed e con Alexander, e se in uno sforzo di elaborazione estetica si mobilitavano gli aspetti Katie Heathcliff della brughiera e la visione volgarmente freudiana dell'aguglia ritta della cattedrale di Calverley, si ricavava ciò che poteva definirsi un'immagine organica, che era indubbiamente assai deprimente, ma anche di grandissima efficacia. Ma separando le varie immagini, separandole, si otteneva una visione per molti aspetti più vera. Anna Bonaiuto ha letto La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.